Già si può sapere. Comunque, guarda, è sicuramente come ti sto dicendo io, 72 centimetri dovrebbe essere quella la lunghezza, adesso non voglio sbagliare, ma io mi ricordo che era così. 72 centimetri, poi naturalmente se la vuoi da un quarto d'onda allora devi ancora abbassare, eccetera, eccetera, capito? Questo è ovvio, è un altro discorso. Va bene, mi prendi già. Ti togli ogni pensiero e ce li hai tutti e due, ce l'hai per la V e per la U. Ti compri la X30, è un'antenna alta, che so io, forse un metro, non c'è un metro, non ci arriva un metro di altezza, e praticamente è poco visibile, eccetera, te lo puoi attaccare anche sull'antenna della televisione lì, e così ce l'hai sia per il V che per il U, e hai UHF e VHF, e va bene, costa all'incirca 60 euro quella originale. Se poi prendi quella della Procell, come si chiama, mi sembra che costa addirittura ancora di meno, la metà. Ma quella della Diamond, intorno ai 60 euro, una cosa del genere, costa già. La puoi richiedere da fuori, in pochi giorni te la mandano tramite la SDA. Non ti devi cervellare la mente per fare magari la taratura giusta, eccetera, eccetera. Sai che quella è a posto, non fai altro che piazzarla e basta. Ci vuole la cosa, come si chiama? Il PL sopra, ma tu immaginati una polunga, per dire, su quanto ti sei, 20 metri di cavo, fai 20 in una polunga lunga 20 metri con due PL, una a parte dall'altra, una che attacca al ricevitore e una che attacca all'antenna, e non hai problemi di nessun genere, né taratura né niente, ho già. Va così, sì, però diciamo che è troppo corta quella, diciamo che dovresti tenere un sottomultiplo un pochino più alto, perché sennò che cosa hai di restrizione? Non è che hai un granché, capito? Oh, già. No, stavo parlando del campo, per gli ispettori del campo, hai capito? Quando compro, diciamo, io ho fatto 144 di più, 14,4, però se ho compromettere il cavo, quindi saranno 28,8. Non lo so, infatti dovrebbe essere così, ma mi sembra che era intorno ai 33 centimetri invece, se ricordo bene, 32-33 in questo caso qui. Adesso non voglio sbagliare, non so se la mia moglie mi sta ingannando, ma mi sembra che era così. Quale? Un sottomulto per la lunghezza del V, cioè del V hai detto, non del V, del V hai detto, o Gianni? No, io sto parlando del capo di discesa, quindi se sono il 144 col capo di discesa, ho fatto il sottomulto, se ne metto un'ipotesi, mi mette di capo, devo essere... Con il calcoli, come sapete, fattura al capo, più o meno siamo lì, insomma, ecco, non ci sono problemi. Va bene lo stesso. Sì, Giulia, stavo leggendo il manuale delle valvole, come hai detto tu, la L84 è quella del quella grande del trasmettitore, mentre la 686 è quella del modulatore, quindi una è del finale e l'altra è quella del modulatore. Sì, è così, o qua, ma è L84 la finale, praticamente la valvola che scalda di più, che scalda abbastanza, diciamo che con la mano non si può toccare quando è proprio nel pieno della sua temperatura. Sì, è così. Oh Gianni, riguardo anche dell'antenna, tu devi pensare questo, che a seconda della sezione che utilizzi, ad esempio, non so se tu utilizzi, che so io, un cavo, un filo di un certo spessore, la lunghezza fisica è una, se poi invece il cavo è più spesso, la lunghezza fisica si accorcia, insomma, perciò tu parti da quella misura, per dire, supponiamo 72 cm, però non la fare 72 direttamente, farla, che so io, 75, 78, eppure, come ha detto Claudio, ma di volta in volta, che misuri con lo strumento, te la tagli e te la corci alla misura giusta, quella che deve essere, capito? Però dipende sempre, queste misure sono indicative, ma sono subordinate anche allo spessore dello stilo, ad esempio se è uno stilo rigido oppure a un filare di una certa sezione, capito Gianni? Perciò sono sì indicativi, ma subordinati, ricordati sempre alla sezione del cavo o dello stilo che usi, capito Gianni? Dunque infatti, ciò di come si chiama, di alluminio, anticorda, quello che chiamare, vuoto dentro, capite, tipo quelli del diametro che c'ha nel cuore della televisione, diciamo, quello che posso dire, sai che sia 8 mm, 10 mm, come si chiama, quello lì io me ne faccio 5 spessori da 75, ne utilizzo 4 per i radiali e l'altro per lo strumentale, e poi la penna se la faccio 72, mi state ascoltando bene, che ho un accordatore, la posso accordare come voglio, vero Claudio? Sì, d'accordo, puoi accordare come vuoi, questo sì, non ci sono dubbi, però per principio l'antenna si deve tarare nella sua misura giusta, a parte l'accordatore, capito? Già, se no uno cosa fa? Prende un pezzo più di ferro, si mette un pezzo più di ferro e accordi lo stesso con l'accordatore, per dire no, non è che si lavora in quel modo, devi fare l'antenna e tararla nelle sue dimensioni giuste, quelle che devono realmente essere. Poi, se poi a uno può dei problemi, può usare anche l'accordatore, capito Gianni? Insomma, si parte da questo principio, non dall'idea che io taglio e poi magari metto l'accordatore e realizzo ugualmente quello che mi serve. No, non è così che si lavora. Si lavora bene direttamente dall'inizio per poi completare magari eventualmente anche con uno strumento, capito Gianni? Sì, ma io parto indubbiamente dal fatto che farò il calcolo, quell'operazione che ti ho detto, farò 300.000, tratto per la frequenza, le dimensioni dell'antenna, hai capito? E quella lì praticamente è la frequenza di risonanza dell'antenna, che sto facendo quel calcolo, io sto facendo un'antenna che risuona quella frequenza lì, hai capito? Sì, poi, e come si chiama, una volta che è fatta così l'antenna, che c'è qualche cosa con l'accordatore, dico, per quella frequenza lì, ti corrigi, prendila. Prendo di nuovo io, perché Claudio si vede che è ancora al telefono. Sì, ma è così, io già, ebbene, se no sarebbe un assurdo fare affidamento solo sull'accordatore, no, prima uno non è come quello che va a comprarsi le scarpe, io me le compro un numero più grande e poi mi metto un pezzo di cotone nella punta della scarpa, e no, devi comprare la misura che ti va bene, dopodiché poi quindi se è necessario la modifica la puoi portare anche al cartolaio, quello che fa la modifica. Ecco, non so se ho reso l'idea, adesso non c'entra niente il paragone che ho fatto, però l'idea è quella, ho già. Perdonatemi se non rispondo, sto rispondendo al telefono, mi stanno ammazzando, mi sono reperibile e ogni tanto mi chiamano. Avanti Gianni. Ok, non niente, stavo facendo così la discussione che ho detto 301, ho detto una frequenza che dà, diciamo, le dimensioni del, praticamente sarebbe la, come si chiama, quello per fare il calcolo di risonanza delle azioni, però facendo quel calcolo si fa, come stavo dicendo, dopo si rimane qualche pelo di cosa, si corregge anche con l'accordatore, grazie. Sì, ma se vuoi andare a linea diretta ti fai degli accorgimenti o dallo stilo stesso dell'antenna con la misura standard, oppure vai accorciando il cavo di discesa, siamo sempre lì, non cambia niente. Già, io di solito lavoro molto col cavo perché mi è più facile, sai, con la forbice a pezzettino, perché l'antenna è molto più pericolosa, se sbagli proprio il millimetro ti salgono magari nelle frequenze alte, ti si abbassano nelle frequenze basse, quindi non hai mai una taratura precisa, invece col cavo ci lavori meglio. Nel caso sbagli la misura del cavo si può aggiungere, ecco, perché i barilotti che stiamo vendendo oggi sono a perdita zero, quindi si aggiunge di qualche insomma centimetro eccetera, non è un problema. Tanto del PL io una volta l'avevo fatto, non mi ha mai creato problemi, giusto perché non avevo voglia di cambiare il cavo e di rifare tutta la taratura, l'avevo fatto questo spezzone da 10 centimetri col barilotto 2PL, che per saltare il PL mi bruciavo tutte le dita di quanto era piccolo, però ero riuscito insomma a dare la taratura minima, altrimenti fai il simmetrizzatore cosiddetto, quindi se ti capita che è corto o è lungo fai il simmetrizzatore, praticamente un cerchio con la misura che ti serve per cercare di simmetrizzare l'uscita dell'antenna. Queste sono cose normalissime che facciamo un po' tutti, ma chi lo sa lavora col cavo, insomma, si può anche, sia il cavo lungo per accorciare le stazionarie, ti fai una piccola curva, dipende da quanto devi accorciare le stazionarie, quindi riesci a far nascere un simmetrizzatore che serve per abbassare l'onda dell'antenna e quindi avere meno stazionarie, tutto lì. Quindi stiamo dicendo come il cavo di discesa va bene, 50 ohm, perché parlavo una volta che di 75 ohm, possibile? Sicuramente è più affidabile il 50 ohm, il 75 ohm è un cavo a meno perdita, ma ha una resa inferiore a quella che usiamo noi a 50 ohm. Noi la vogliamo tutta a 50 ohm perché andiamo in trasmissione, quindi i 75 ohm si usano soprattutto per video, per audio e trasmissione è meglio usare il 50 ohm. Già, non so se Giulio l'ha mai usato il 75 ohm, io ci provai una volta, però la resa non era quella del 50 ohm, anche la ricezione mi portava dentro molto più QRM, aveva molte più scariche elettrostatiche, non avevo però rientro di RF all'interno della stanza, è cosa che può succedere col 50 ohm, però non avevo quella resa che deve essere. A te Giulio. Ok, sì, in effetti è così, il 75 ohm non è adatto per la ricetrasmissione perché ci sarebbe un squilibrio di impedenza, infatti il semitrizzatore che ti chiamava, che ti citava poc'anzi Claudio o Gianni, non è altro che un balun, si chiama balun, una volta si utilizzava molto in antenne TV, perché? Perché, ti spiego, prima l'antenna della televisione era l'antenna cioè l'ingresso di antenna nella televisione, cioè nel pannello, entrava a 75 ohm, era costruito per 75 ohm, però non esisteva il cavo da 75 ohm, allora si utilizzava il cavo che aveva 300 ohm, e su nell'antenna si faceva uno spezzone di cavo che si chiamava balum, si chiama balum. Questo spezzone aveva una misura ben specifica che, fatta a quella precisa misura, non faceva altro che adeguare il cavo di discesa della che tu utilizzavi all'ingresso della televisione. Capito già? Pertanto, cosa voglio dire? Voglio dire che ogni sua apparecchiatura ha bisogno, ha necessità, questa sacrosanta, dell'impedenza sua, giusta. Dunque, noi in radio ricettrasmissione ci vogliono i 50 ohm, 52 ohm, alle volte può essere, non è un problema. Però nella ricezione invece, ricezione TV, sono 75 ohm. Non so se ho reso l'idea o Gianni. Il simmetrizzatore che ti stava dicendo qua non è altro che un cavo fatto a forma di cerchio, che poi di tanto in tanto tu non fai altro che accorciare e controllare con lo strumento per dare quella lunghezza esatta che ti serve. Capito, Gianni? Ok, insomma non devo mettere quelle cime proprio sotto per l'antenna in alto oppure vicino all'apparato. No, vai Giulio, stavo parlando di Giulio e sta dicendo cose esatte. Vai Giulio, vai, spiegati dove va attaccato, dove va fatto il simmetrizzatore, così chiamato balum, quindi per capirci. Ok, allora, Gianni, l'ideale sarebbe metterlo su in antenna, però si può mettere anche giù, però tu poi te lo ritrovi questo coso qui, esteticamente non è che sia molto bello, capito, Gianni? Però di questi problemi secondo me tu non te ne devi mettere, perché a te cosa ti occorre? Il cavo di discesa per l'apparecchiatura che stai utilizzando adesso, cioè per la ricettrasmissione, compri il cavo adeguato a 50 ohm e via, non ti devi mettere questi problemi, anche perché se uno non è veramente pratico per fare certe cose ha sempre dei disadattamenti, e chi te lo fa fare? Tu pensa solo una cosa, che è un cavo di discesa, che tu mi fai una curva molto accentuata. Che cosa succede se mi fai una curva molto accentuata? La curva deve essere ampia, deve essere sempre che il cavo, l'isolamento, quello bianco che c'è dentro, si schiaccia. Schiacciandosi, che cosa avviene? Avviene che la rete metallica che c'è della massa, diciamo così, del cavo stesso, si avvicina più di quanto dovrebbe al polo caldo, cioè al filo centrale. In quel preciso punto ti può creare delle difficoltà, perché? Perché cambia l'impedenza, capito, Gianni? I cavi non è che sono fatti così alla cannona, sono delle cose ben studiate e non ci sono dubbi. L'unica cosa che tu dovresti scegliere magari un cavo buono, che so io, un 213, un limite all'RG8, capito? Questi sono i cavi che hanno maggiore resa, e sembra così, ma se hai tu una discesa lunga, ad esempio, perdi meno ricezione, perdi meno trasmissione e soprattutto hai una velocità di trasmissione più veloce, perché ogni cavo di discesa ha una velocità di trasmissione. Che cosa significa? Significa che, per dire, non so, ad esempio il 213 ha 0,66 per metro di velocità, mentre invece un cavo RG58, quello sottile, quello lì ha 1,50, 1,52, una cosa del genere, praticamente ha una trasmissione un po' più lenta. No? Che cosa succede? Noi, soltanto per farti capire bene, prendiamo due apparecchi, tu parli con due microfoni, va bene, contemporaneamente, hai due apparecchi e trasmetti sullo stesso canale, Allora, l'antenna con l'RG13 arriva un istante prima la modulazione di quella dell'RG58, perché? Proprio a causa della velocità di trasmissione, capito già? Adesso ti ho messo tante cose nella mente, però ripeto, prendi il cavo direttamente che ti serve, così non hai problemi, vai! Questa struttura della mini Grand Prix, farò l'antenna, come dice, capito quello che faccio qui, la coordinata di misure di risonanza è fatta la roba. Claudio, avanti. Sì. Ti ha spiegato alla grande Giulio, ma il procedimento è quello. L'importante è sapere quanto ci sia di carico sull'impedenza per poi fare il calcolo e sapere appunto quanto devi accorciare o meno, insomma, tutto il problema. Però ripeto, io con 75 ohm ci provai, ma non era una grande resa. Infatti ho fatto la stessa prova che ti ha detto Giulio, praticamente si notava questa differenza proprio che c'era tra un'antenna e l'altra, una con i 75 ohm e l'altra con i 50 ohm. Ok, poi ti ripeto, di cavo di discesa ne puoi usare quello che vuoi. Puoi usare quello che vuoi. Io con le finali ho sempre usato l'RG58 o l'RG59, che sono similari. Il 59 ha una calza un pochino più grossa, con il centrale diciamo non filare ma rigido, mentre il 58, quindi 58-59 puoi usare, ecco, è uno spreco usare i cavi grossi per fare delle antenne di questo genere. Perlomeno io li uso solo in antenne verticali che mi devono dare soprattutto una grande resa, ma soprattutto usare delle potenze un po' più elevate. Ma chi usa potenze anche sino a 150-200 watt va bene sempre un cavo sottile, ecco. Sandro sei tu? No, forse qualcuno. Allora è la propagazione. Sì, vabbè, riprendi o qua. Ma io non ho sentito nessuno, avete sentito qualcuno voi, no? Ma io sto usando il baracchino, la ricezione non è che sia delle migliori, però non ho neanche QRM, ma c'era qualcuno che voleva entrare. Avevo sentito sotto era, però sotto la modulazione di Gianni una modulazione, ma probabilmente o è la propagazione o era qualcuno un po' più debole, non lo so. Ma se pensavo che era Sandro, invece sembra di no, se lo sarebbe, ci sarebbe riaffacciato. Vabbè, comunque chiamo di nuovo. Sandro, ci sei tu? Avanti. Ok, Dolcino, stai uscendo basso, io ti sento, non so se Claudio ti sente, stai uscendo basso, potresti uscire meglio sicuramente. Claudio, l'hai sentito all'inizio? Sì, ma molto molto basso rispetto a come lo sento attualmente, questo passaggio è molto più basso, Dove sei, Dolcino? Ah, sei a casa tua? Vabbè, io qua vedo che non si muove niente del baracchino, Mentre invece dell'HF ti sentivo molto meglio. Hai toccato qualcosa? Hai spostato l'antenna? Non lo so, sicuramente allora è perché hai spostato leggermente l'antenna, non lo so. Vediamo un po', riprendi Gianni Capri 2, lo senti a Leoncino? Ok, non so se hai detto di nuovo sotto, stavo dicendo, ma da dove trasmetti tu, come non è così basso? Ah, ecco, adesso è spiegato tutto, ecco, per quello, Ma l'antenna magnetica dove l'hai appoggiata? Non l'hai appoggiata su almeno una base metallica o qualcosa del genere che ti possa fare la chiave riflettente? Dove l'hai messa questa antenna magnetica? Ah, ho capito, ma allora è vicino al muro, dunque lì l'ostacolo è quello, è troppo aderente al muro, la dovresti mettere in una posizione distante dal muro, e non credo che così possa rendere, capito vicino? Sentite, sento anch'io, però sei talmente basso che faccio fatica a sentirti, capito? Ecco qual è il problema, perché essendo molto vicino al muro, lì le onde si disperdono, capito? Non è che ha una grande resa. Non so se hai qualche terrazzino, che so io, con una ringhiera metallica, e la puoi mettere magari al centro, così rimane un pochino più distante. E allora è diverso il discorso, diciamo che un miglioramento ci sarà sicuramente. Ho capito, vabbè, pazienza, vuol dire mettere l'antenna come si deve, lo capita, e così ti possiamo sentire bene, perché già mi da muro se non ti sente, a muro dovresti arrivare benissimo, io ti sento perché sono dei punti, tu sei lì a carica in quella zona lì, e perciò diciamo che ci sono poco ostacoli fra me e te, Claudio avete una permissione, una stazione come si deve, e dunque lui ti acchiappa, non è che trasmetti tu a lui, è lui che acchiappa a te, non so se hai avuto un'idea, va bene, facciamo girare, vai qua. Sì, ma infatti no, io gli ho detto appunto di vedere se aveva qualche base, libera per poter inserire l'antenna, lui mi ha detto che aveva il motore esterno nella finestra, quindi la base del motore del condizionatore, ho detto appoggiala lì e vediamo se riesco ad ascoltarti, effettivamente riesco ad ascoltarlo e quindi non mi sono preoccupato più di tanto, ecco. Riesco ad ascoltarlo, però purtroppo le antenne vogliono messe sopra il tetto, vedi Antonello con la sua antenna piccolina riesce ad arrivare un po' a tutte le parti, o se no agganciare da qualche parte una boomerang e cercare di farle fare massa e vedere un pochino come va tutto lì. Ok, avanti Gianni Capri 2. Ok, infatti secondo come invece l'antenna, perché non so se mi ascolta, se non sono da lì chiamo un tiro di chioppo e lì dovrebbe ascoltare, però diciamo io lui non lo ascolto, non so se lui mi ascolta, se un tiro tu ascolti la Capri 2. Forse non ti sente. Oh, Leoncino, ma senti tu Capri 2 che ti ha rilanciato l'antenna? Forse è andata a spostare di nuovo la magnetica. Sono situazioni queste, quando uno è impossibilitato che non ha un'antenna come si deve, è chiaro che al limite proprio lo sente poco, ma niente di più. Ok, vabbè. Anch'io non è che sono mosse molto bene l'antenna, prima o poi decido di cambiarla perché ci mancano una metà di radiale, ma finché va, quando non va so cosa fare, vero qua? Le antenne quando vanno, anche se ci manca un radiale, tu sai perché i radiali sono in uso per avere il piano di massa irradiante, quindi si chiamano radiali per quello. Perciò non credo che ci siano problemi, insomma, ecco, alla fin fine. Se manca un radiale, l'importante è che il radiante, che è quello centrale, funzioni bene, che il PL sia a posto e tutto, poi per queste cose non ci sono difficoltà, dai. Va bene. Un tempo le antenne più vecchie erano e più funzionavano. E infatti qua, questa aspetta che è stata anche ristrutturata, ma questa è un'antenna che avrà già una ventina d'anni è la stella 16 radiali, ma ne mancano già 7-8 di questi radiali, ne mancano, ogni tanto in tanto ne cade uno, ne cade, ma l'avevo ristrutturata già una volta. Pensa che all'interno della bobina, tu lo sai dove c'è l'impedenza, no? La bobina per la corrente elettrostatica, e lì non si riusciva a saldare perché era saldata, si era rotta lì e dunque non funzionava più l'antenna perché il polo caldo, il polo centrale non funzionava più. Allora l'avevo tirata giù, beh, nemmeno con un saldatore tente si riusciva a saldarlo. Allora cosa avevo fatto? Avevo preso delle viti autofilettanti in acciaio inox, l'ho preso e le ho fissate tramite le viti autofilettanti, le vitine come si deve, in modo che non si arrugginisce l'acciaio inox, e va sempre, questa è già parecchi anni che ormai è stata ristrutturata e sta sempre funzionando, nonostante che ci mancano 6 o 7 radiali o 8 anche. Perciò adesso tiriamo avanti ancora, poi quando sarà il momento vedremo cosa si deve fare, che quello che si deve fare lo so, è una mantra ormai basta e non se ne parla più, però devo dire che la Stellar ha dato delle grandi soddisfazioni, infatti quando c'è propagazione mi sento dappertutto, non è un problema. Vai Gianni! Ok, mi approfitto per salutarvi in quanto è pronto il carico batteria, mi hanno già la tua voce. Avrebbe, diciamo, ancora fatto piacere continuare a conversare perché sono conversazioni che mi piacciono, è la mia passione, però adesso mi hanno dato voce, però stasera sono tutta la sera qui alla radio e quindi se non avete impegni di fare altre cose possiamo rimanere anche tutto il pomeriggio, per me non c'è problema. Per il momento vi saluto, ciao Giulio, ciao Claudio, ciao Leoncino, ciao a tutti gli amici in ascolto su canale 10, canale 2, passa 5 reinchiesi, non mi guardi perché lo lascio acceso, e spero di sentirvi ancora. Avanti Claudio. Ok Gianni, un abbraccio, allora buon fine domenica, ci si risente stasera, grazie della compagnia come sempre. Ci ascoltiamo stasera allora, buon pranzo, buon tutto e salutoni per il QRA Famiglia, avanti Giulio. Ok, ciao Gianni, salutoni a risentirci magari stasera, buon appetito adesso, buon pranzo e fra un quarto d'ora suppongo che sarà pronto anche qua, dunque perché l'una meno un quarto, dunque siamo vicino a cosa, come si dice, al pranzo, e così è qua. Allora, qua, alla grande, allora, no? Sempre, sai che con la radio lì che stai usando, quel baracchino ha una modulazione straordinaria, lo sai, con quel microfono, ma veramente bella, bella, bella, bella, bella, potentissima poi. Sì, è bella, è più tre, quello che hai visto tu, quello del Super Sidere, che non tra più tre Super Sidere, che quello cromato che fecero dopo quell'altro che hai visto. Va molto bene, si adegua moltissimo soprattutto la mia modulazione, ha delle tonalità anche un po' medio-alte che quindi non comprimono più di tanto e va alla grande. Sono soddisfattissimo poi con questi baracchini che sono tutti a relè, a una commutazione allucinante. Va bene, vediamo un pochino Leoncino, non lo sento più giù. Ma nemmeno io, non lo sento più, evidentemente ha chiuso oppure sta cercando di collocare l'antenna a qualche altra parte, non so. Sì, in effetti è così, diciamo che bisogna riconoscerlo qua, oggi un baracchino oppure uno professionale può essere più sofisticato, con più cose indubbiamente, però bisogna riconoscere che la costruzione elettronica di prima è inferiore, nel senso che è così. Sì, ma non c'è dubbio. Non c'è dubbio, caro Giulio, è proprio così, perché per conto tu lo sai quanto è me, meglio di me, che il 3 più 3 usa una capsula ceramica e che quindi ha un'impedenza di 500 ohm, lavorando con già un'antenna che lavora a 50 ohm, in più l'impedenza così alta riesce a darti una timbrica molto elevata da avere praticamente le tonalità medio-alte molto molto molto forti, ecco. Sì, anche perché riesce a raggiungere un numero di Hz molto molto elevato, ma molto elevato veramente. Quello che conta è che non distorce quando tu lo metti a volume alto, è quello. Il bello di questo microfono è questo, proprio questo. C'era anche lo Shure che andava molto bene nei tempi passati, anche le CBA andava molto bene. Oggi magari delle demolirne forse sa delta il microfono, io parlo sempre a livello di baracchini, non professionale, non di roba professionale. Sa delta forse il migliore che abbiano fatto qui nei tempi moderni il microfono, però non supera mai secondo me il Tanner più 3. Guarda, io giù di diversi li hai visti, c'è anche il Saletta, il Bravo Plus che è nuovo, che mi ha fatto avere Gigi Luigino da Salvatore Maestrale, e niente, non ha quella, è forte sì, ma non ha quella timbrica e quella chiarezza che può avere il Tanner più 3 in questo contesto, appunto nell'uso dei baracchini di vecchia generazione. Che anch'io sei comodo, adesso sto usando il Zodiac base, ma sei comodo all'HB23, sei comodo all'Inuit, sei comodo al Midland e così via, la modulazione rimane sempre la stessa perché la commutazione delle radio RL e quindi lo scambio diventa automatico, non ho niente da aumentare, niente, anche perché questa radio mi pare Mickey Gain c'era solo. Allora, la Fayette non ha niente, la KV23 c'è lo square, c'è il volume, il canale e basta. Questi base sono un po' più moderni, c'hanno anche l'FM, tra l'altro questo Zodiac è 40 canali, però non hanno quella potenza di Mickey Gain da sollevare, niente da fare, quindi sta lavorando tutto il microfono. Oh Giulio, tieni conto che io ce l'ho uno, è alla prima attacca, guarda, io ce l'ho a uno così, a uno, posso metterlo anche a due, vedi già come inizia ad aumentare, ed è troppo alta, è meglio tenerla così come ce l'avevo poc'anzi. Sì, anch'io lo sto usando basso in questo momento, diciamo che quanto è uno, due, a due quindi. Ecco, infatti si aumenta qui adesso, ecco adesso è al massimo, a distorce adesso con il microfono al massimo, a distorce con la modulazione, con la rimasta sempre pulita. No, non distorce assolutamente, c'è molta preamplificazione ma non distorce, molta risonanza, aumenta anche di tonalità microfonica ma non distorce, c'hanno quello di buono perché lavorano con la capsula ceramica tutto lì. Infatti. Vabbè, così. Poi anche un altro vantaggio, un altro pregio, che la batteria non si consuma mai, questa batteria io ce l'avevo 3 anni come minimo, non si consuma mai questa batteria qua, questo microfono, ha un consumo bassissimo, ma quasi niente, quasi inesistente si può dire, perché una batteria ragazzi, che in questo microfono c'è 3 anni, cosa vuoi, che consumo vuoi considerare? Non ne ha consumo. Vabbè, non ne hanno, che io voglio entrare. Vabbè. Ciao Luca, buonasera. Anzi, buongiorno. Va bene, va bene. L'importante è che ci sentiamo, Giulio, poi la motivazione è sempre quella. L'importante è fare radio, poi uno può parlare con un baracchino, può parlare con un portatile, l'importante è che ci sentiamo tutti, che si va d'accordo e ci scambiamo due chiacchiere. Altre cose, no, non c'è da aggiungere altro. Ciao Luca, avanti, riprendi. Da poco fa ci stai ascoltando, non sei entrato. Qua facciamo roba qua, alleluia. Casino. Devo farmi darsi domani lo stesso. Sto spostando l'armadio, c'ho roba da buttare. C'è roba tipo un letto di CD, non fosse più nulla, è tanto serio. E altre cose così, non. Devo fare un po' di pulizia domani. Comunque mi trovo, sono la terra che vi ascolto. Va bene, avanti Giulio allora, io stamattina stavo aspettando che mi chiamasse Benito perché mi ha detto che si avvicinava con te per le 8:40, infatti mi hai spiegato al meteo che ho fatto il trombolo, non c'è stato a vento, di. Buongiorno, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male, ho fatto male sai? Sì. Guarda che è qua, è il che lo vedo. Come nonna. Ieri quando ho detto che tu mi faccia sapere qualcosa, ma comunque tu sai lui che sta in giro, ci sta per passare. Comunque non mi fa la radio fiammante, no, mi fa come tu aumenti lì nel aspetta nel micro oppure nel cose del cose dei watt è nuovo nuovo tutto tutto bene veramente è come quella che ho io, molta gente lo fa con le unghie per sollevare lo slider del mic, della potenza, delle fini, no, si fa col polpastrello della mano, perché con l'unghia vai a graffiare e porti via la vernice, quello che io ho sempre detto a tutti, perché ho preso quello di Luca Flipper che non l'ho visto, quello che era marcato e qui che là, il mio nuovo nuovo, perché? Perché io nelle radio ho un altro tipo di dimestichezza, nel senso che cerco di fare meno l'anno possibile, soprattutto quando tocco e quando faccio. Ok, avanti Giulio. Ok, ciao Luca. Ma infatti Luca, ieri ho sentito io a Benito, dice sto aspettando a Luca che deve venire qua perché dobbiamo andare da Claudio. E evidentemente non vi siete sentiti, allora è così, capito Luca? No, è salito Benito a casa, no? Attimo, aspetta. Affannapoli. Va bene, là. Niente, no, mi ha chiamato. Infatti lui era convinto di... Perché Claudio aveva detto sabato sera, ma lui era impegnato con la squadra, non se ne è ricordato. E poi niente, gli ha detto che saliva domani, cioè oggi, non lo so. Va bene, infatti io stavo smontando la radio per portargliela a Claudio per farmi memorizzare i canali, queste cose qua. E niente, ma vabbè se vuole salire lui non c'è problema. Non è che... Ehi, tu mangi grande. Cosa? Ma benito, te lo mangi, no? Cosa? C'è la rasura. Oh, non ti ho capito. Ho detto, benito, non è che te lo mangi o sei da solo? No, non è... quello è il problema. Non... forse non sa dove sono, non so, perché mi ha detto che saliva con te. Siccome che tu dovevi, mi pare, codificare e inserirti qualcosa in quella radio tua, ne approfittate, salite, il posto ce l'ho, non è che Giulio ha terminato tutto qua, il lavoro è finito, c'ho anche l'altra scrivania piccolina per fare i lavori, quindi non c'era problema, infatti ti avevo detto io di aspettare che dovevo ancora terminare l'altra base per poi avere più posto e lavorare meglio, capito? Perché quando ho fatto quella di Sano, ho lavorato a Cani, mi ho dovuto mettere una base al centro della stanza con cavi tutti volanti per poter fare quella radio, mentre invece adesso c'è una scrivania con l'alimentatore a parte da 20 ampere, l'attacco dell'antenna e c'ho tutto per potermi muovere meglio, tutto qua comunque. Video, se vuole salire io sono a casa stasera, non devo andare a nessuna parte. Ma infatti se tu gli stavi dicendo tramite radio di toccare e fargli però tu qua fa basata di tanto lui sa dove mettere le mani no non lo stavo spiegando no tu qua non puoi magari sbagli e la rovini ma ci fa lo fai fare a lui cioè a te lui non sbaglia sa dove mettere le mani cosa fai in chivi è come se tu assomigli a me apri la radio e non mi do qui ma rimanco a parte che è molto difficile. Ok, lo sai, punto va bene. Se tu vieni là, lui apri la radio e tocca a lui, no, non ti imbocco. Assolutamente. Allora, a te ne parezza perché se devo mettere le mani, poi ti guardo magari dove devo mettere le mani e poi me lo faccio io. Fate così, no, vabbè, ma ci vuole anche lo strumento per farlo. Vabbè. Avanti Giulio, e allora non si mangia oggi? Sì, infatti siamo arrivati proprio all'ora del pranzo, infatti stavo aspettando il microfono per salutare, dai, ci sentiamo stasera eventualmente, magari dopo le partite, perché ci sono le partite di calcio, anche se ho l'intervista e allora che siamo arrivati a Rosaia, hai visto piano piano, con il vecchietto ieri, quella bella portata è gol. Fate che quella che subito in Francia di cose, nel Ciso Cove, se anche ha sbagliato, poteva segnare lui, ma già ci ha pensato Del Piero o in Tirizza, e beh, come stiamo andando? Siamo all'inizio Giulio, che cavolo, poi è iniziata diciamo la stagione. Già lo so, ancora il campionato è lungo, ma diciamo che ci stiamo mettendo bene, meglio così. Sono contento per la Juve. Non fa niente, perché è una squadra che merita di essere sempre fra le grandi. Speriamo bene che continui però. Però lo sembra fatto apposta, guarda, tutte le volte che gioca con le squadre forte si esalta, e con l'Inter ha pareggiato, col Milan ha vinto, e tutte e due volte sempre a Milano. Adesso vedremo un po' di là che cosa succede. Intanto adesso cosa c'è? Domenica prossima mi sembra che ci sia Lazio-Roma, e vediamo un po' che cosa fa la Lazio con la Roma. La Roma lo stesso si sta riprendendo, sempre per il fatto della classifica, non per altro, o Luca. Comunque sono contento, preferisco più la Lazio in testa della classifica che la Roma, questo è sicuro, non ci sono dubbi. Pur via di buon romani, però diciamo che io preferisco più la Lazio prima della classifica che la Roma. Ieri 2-0 erano, poi vabbè, si sa, Ibrahimovic è bravo e anche lui è forte, non c'è niente da fare, poi ha fatto un bel gol di testa, poi aveva preso anche il palo, e poi era il Milan, non era la Lanteri, sa, o Malaspina, era il Milan o Cla. Lo so, sì, ho visto, no, io avevo la partita alle 3:30 a Bancali, abbiamo fatto l'esordio dell'inizio del campionato, abbiamo pareggiato 0-0 con Tissi, grande partita anche la nostra, poi siamo trattenuti un po' lì al campo perché c'è il bar, quindi abbiamo fatto un rinfresco iniziale, e qui sono rientrato a casa a alle 7, tranquillo, senza nessun problema. Infatti poi sono andato a luce, un po' mi sono messo in sesto, ho fatto una mezz'oretta di radio con te con Gianni, e poi mi sono andato a letto perché stamattina mi devo alzare presto, tra l'altro neanche fregato l'orario, non ho cambiato l'orario, ieri notte mi sono dimenticato, stamattina mi sono alzato e sono uscito, hai visto, boh, ma mi sembra troppo buio per andare a lavorare. Cosa è successo? Mi ha detto mia moglie, mi ha detto, ma poi è successo così presto, perché che adesso sono le 7:10, no, sono le 6:10. E quindi ho detto, ma ormai sono fuori, mi faccio il giro di controllo, fra un po' già c'è luce, ma in ogni caso già c'ho sempre la pila presso la lampada, quella grossa, tipo quella dei carabinieri per controllare i vasconi eccetera, ma i piatti già sono illuminati, quindi me l'ho preso con calma, ho preso il caffè alla corte e niente, poi sono entrato a casa che erano come dalle 10, ho acceso la radio e ci abbiamo fatto due chiacchiere con te e con Gian. Va bene signori, è pronto il pranzo anche qua, quindi io vi saluto, un abbraccio, grazie Giulio, grazie di cuore di tutto, della compagnia di tutto, noi ci vediamo in settimana, così prospettiamo anche quell'altro lavoretto che stavamo dicendo, e con Luca ci sentiamo stasera, insomma, se volete accendere la radio, io sono qua tutta la sera a casa, me ne poserò un paio d'ore, poi sono qua in radio, intanto oramai ho la mia stanza, quindi mi piace anche starci un po' di più alla radio, mentre prima ero sempre così in conflitto con mia figlia, che condividevamo la stanza, insomma, in due, ecco, adesso no, non c'è nessun problema. Devo anche andare stavalcato, o Giulio, a prendere quella piastra che si attacca al muro per il televisore, perché ancora non l'ho montato, ce l'ho in terra, perché oramai lo appendo al muro, insomma, oramai faccio una cosa fatta bene, finita definitivamente, e non se ne parla più. Ok, un abbraccio a tutti, anche quelli che stanno ascoltando, io passo NQRT e ci sentiamo nel pomeriggio. Ciao a tutti, buon pranzo e buona domenica naturalmente a tutti. Ok, ricambiate il tutto al 100%, ci sentiamo magari stasera una tra le due età di chiacchiere ce la facciamo, dopo magari dopo le partite, non so se c'è la MotoGP anche, non lo so, la verità, comunque saremo a vedere, dopo controllerò il televideo per vedere se c'è anche la MotoGP, ma comunque se c'è la MotoGP è alle 3 al massimo, no, forse alle 2, alle 3 è finita, sì, e dunque abbiamo tutto il tempo poi la sera di fare due chiacchiere al baracchino. Ciao Claudio, buon appetito, buon pranzo, saluto in casa. E ciao Luca, salutoni, anch'io vado a mangiare perché sono 1:05 già quasi e ci sentiamo magari eventualmente stasera se accendi. Riprendi Luca, ciao a tutti. Ciao, buon pranzo Claudio, ciao buon pranzo Giulio, stasera. Passiamo alla prossima, ciao.